falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. La vita può essere meravigliosa, esaltante, intrigante, può dare tante soddisfazioni, può però essere anche di una crudeltà incredibile e purtroppo noi non abbiamo nessun modo per poter controllare questi ingredienti così diversi tra di loro. E oggi noi raccontiamo proprio una storia che parla di questo. È la storia di una squadra di calcio. È una squadra partita dalle serie minori, è cresciuta a tal punto da guadagnarsi il diritto a giocare una finale per vincere il primo trofeo della sua storia. Un sogno inseguito da tutta una città con umiltà, con passione, un sogno che viene cancellato improvvisamente. Questa è la storia di una squadra di calcio brasiliana, la Chapecoense. E sentite, siamo già dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, siamo in Brasile, un paese di cui abbiamo raccontato tante storie, soprattutto storie legate al calcio. Eh sì, perché il calcio in Brasile è una religione, è un mezzo per molti ragazzi per scappare dalle favelas, per realizzare dei sogni, ma anche un mezzo per tutta una città di poter sognare a fianco di qualcosa di grande. Il Brasile non è solo le spiagge di Copacabana, ci sono tante cittadine di provincia dove la vita è veramente difficile e dove magari il pallone può essere l'unico riscatto sociale se ci giochi o l'unica possibilità per sognare se vai a tifare per la tua squadra. E una di queste città è Chapecó, distretto di Santa Caterina, sud del Brasile, 180.000 abitanti. È una cittadina che trae le sue origini dalle popolazioni indigene che abitavano una zona fertile e agricola prevalentemente. È una città di provincia, è lontana dai clamori delle grandi metropoli, ha una squadra di calcio che nasce nel 73 dalla fusione di due società calcistiche, l'Atlético Chapecoense e l'Independiente, unire le forze per creare una squadra solida per poter scalare le classifiche brasiliane, per uscire dalle serie minori. Si gioca sia nei campionati regionali sia in quello nazionale, dove giocano le grandi, il Palmeiras, il Corinthians, il Botafogo, il Flamengo, con i giocatori che ambiscono a uscire dalla piccola realtà di provincia. Nel 2009 la squadra è ancora in Serie D, in quarta serie, arriva terza e passa alla categoria superiore e la Chape, come la chiamano i suoi tifosi, comincia a ingranare, arriva settima, quinta, infine terza nel 2013 e arriva in Serie B. E sono le storie che ci piacciono, le storie di piccole squadre che vivono grandi stagioni, ne abbiamo raccontate, anche in Italia è successo, c'è stato il Verona, ci sono state Cagliari e Sampdoria, che sono due grandi città ma lontane dalle aree dei trofei, o il Genoa di Scoglio che va a battere il Liverpool nel 92, poi arrivano il Chievo, il Sassuolo, il Leicester di Claudio Ranieri, insomma sono le belle favole. Si comincia a tifare per la squadra più debole e poi la si vede magari raggiungere il gradino più alto. Veio chute de longe! Golaço! Golaço! E accade la stessa cosa in Brasile, gli abitanti di Chapecó cominciano a stringersi attorno alla loro squadra, la sostengono con un tifo forsennato, compatto, quel tipo di tifo che forse solo in Brasile sanno attuare, riempiono lo stadio che viene ampliato, poi ne viene costruito uno nuovo, insomma si crea veramente un fantastico gruppo che comprende giocatori, dirigenti e tifosi. Arriviamo al 2014, la Chapecoense debutta in Serie A e raggiunge in 5 anni un risultato impensabile. Dopo anni di lavoro, di fatiche, di sacrifici, arriva il momento di assaporare una delle grandi favole del calcio. Bisogna affrontare il campionato di Serie A e l'obiettivo è rimanere lì il più a lungo possibile. il falco e il gabbiano. Primo anno in Serie A, la Ciape, ormai la chiamano tutti così, la Chapecoense arriva quindicesima, un piazzamento buono per una neopromossa e la salvezza. La squadra non ha ovviamente grandi risorse finanziarie, non ha potuto comprare dei fuoriclasse, i giocatori sono di medio valore, però sono giovani, sono uniti, sono pieni di entusiasmo. È la classica favola nella quale il gruppo fa meglio della somma dei singoli. Uno degli eroi, per esempio, è Rafael Lima, un difensore, gioca da 4 anni in quella squadra, è uno degli artefici di questa scalata. Poi c'è Kleber Santana, che ha giocato anche nell'Atletico Madrid, è un po' la chioccia perché è a 35 anni. E poi c'è Felipe Machado, che ha giocato anche in Italia, nella Salernitana, senza lasciare grandi tracce. E poi c'è Claudio Vink, che nel 2015 ha giocato a Verona e ha anche segnato un gol al suo esordio. Pallone a luce, Tupta in buona posizione, direttamente al cross l'islandese, attenzione, Vink da solo, rete, rete! Alla prima situazione con la maglia del Verona, trova la rete pesantissima, proprio lui, Vink, il brasiliano. Verona 1, Pavia 0. Insomma, il livello tecnico è nella media, è una squadra che deve navigare a metà classifica cercando di non finire in zona retrocessione. Però in Brasile c'è la Coppa Sudamericana, che è una specie di Europa League, la vecchia Coppa UEFA, e accedono le migliori squadre degli stati sudamericani. Il Brasile ha diritto a 8 posti che vengono scelti in base anche a un criterio un po' cervellotico che somma le prestazioni nei nazionali regionali. Fatto sta che la Chapecoense si qualifica, entra nel conto delle 8 qualificate, esordisce in Coppa Sudamericana. Ben cruzamento, levantou Denner, passa pelo Canela, Bruno! Gol! Do artilheiro Bruno Rangel, dentro da área, ele é fera e marca o terceiro gol da Chapecoense. Pode ser o gol da classificação. Gol da Chape, andata e ritorno, e nei 16esimi di finale, dopo aver perso l'andata 1-0 contro il Cuiabá, la Chape vince 3-1 davanti ai suoi tifosi. Agli ottavi la squadra deve confrontarsi però con un monumento, una nobile decaduta del calcio argentino, quell'Independiente che l'Inter batté 2 volte nelle 2 finali di Coppa Intercontinentale. Insomma, una grande squadra. Il doppio confronto arriva ai rigori, ci vuole un po' di fortuna a questo punto. Bel surdo Tagliafico, non mira il tecnico brasileño. Tagliafico, attacco il archero Danilo, se classificò Chapecoense. Se perdió la alternativa, el pase a los cuartos del final, el equipo argentino se ha clasificado 5-4 en penales. Chapecoense contra Independiente. Io ho detto prima, ci vuole fortuna, sapendo che stavo cavalcando un paradosso. Perché? Perché Danilo, il portiere della Chapecoense, para il rigore decisivo. Ovviamente è una festa incredibile, e qui cominciamo a fare dei ragionamenti terribili, cioè cosa sarebbe successo se Danilo quel rigore non lo avesse parato, e la Chapecoense sarebbe stata eliminata, quindi sarebbe stata una tragedia sportiva che ne avrebbe evitate altre. Andiamo avanti, perché nei quarti di finale la Chape batte una squadra colombiana, che lo Junior, arriva alla semifinale contro il San Lorenzo, la squadra di Buenos Aires di cui è tifoso Papa Francesco. Bene, andata 1-1, basterebbe uno 0-0 in casa per raggiungere la prima finale della storia, e ancora una volta il portiere Danilo risulta determinante. Cauteruccio con il centro, che dopo sotto gli sta, salvò Danilo, credo che Angeleri se lo perdió, credo che Angeleri se lo perdió, Colocini che lo dà, salva Neto. En el revoleo me parece que fue Angeleri, que se acaba de perder la clasificación. No se puede creer, la encontró el arquero. Sí, Angeleri, no se puede creer. Chapecoense va a la final, todavía no termina, pero va a ir a la final. Non si può credere, Angeleri non ci può credere, siamo al quarto minuto di recupero, mancano pochi secondi e questo Angeleri tira da due passi e Danilo respinge distinto sulla linea. Un'altra festa incredibile, quello che sembra un altro colpo di fortuna è che invece è un altro momento in cui il destino sta tessendo una trama terribile, perché la Chapecoense vola in finale contro l'Atletico Medellin, tutta la città si riversa nelle strade per festeggiare. L'Atletico Medellin è una delle squadre più forti del campionato colombiano, ne abbiamo parlato quando abbiamo raccontato la storia terribile di Andreas Escobar, il difensore che fece un autogol ai mondiali del 94 decretando l'eliminazione della nazionale, che fu ucciso, e poi c'era il narco football iniziato da un altro Escobar, insomma una squadra molto potente ma anche molto discussa. Bene, adesso i tempi si sono passati, quei tempi, e le due squadre stanno per vivere un doppio scontro da cui verrà fuori la vincitrice della Coppa Sudamericana. Ma io considero che questo momento della Chapecoense è molto... Considero questo momento della Chapecoense molto speciale. Sono molto grato alla dirigenza perché ha creato una società molto ben organizzata, con una struttura solida che ci ha permesso di lavorare meglio e ottenere questi risultati. Io sto vivendo il miglior momento della mia carriera. Io mi sento sinceramente nel miglior momento della mia carriera. E queste sono le parole di Luis Carlos Saroli, meglio noto come Caio Junior. È l'allenatore della Chape. In 16 anni di carriera ha allenato il Flamengo, il Botafogo, poi è sceso, è andato in Arabia Saudita. E si sta prendendo la sua grande rivincita in tutto il Brasile, si sprecano i paragoni con il Leicester di Ranieri e in qualche modo anche i tifosi delle altre squadre stanno tifando per questa squadra dalla divisa bianco-verde che sta per regalare un miracolo a tutto il paese. La prima partita si svolge a Medellin e, come è accaduto altre volte, viene organizzato un volo charter per l'occasione. La compagnia aerea è la boliviana LAMIA, un acronimo che sta per Linea Aerea Merida Internacional de Aviación. E nell'antica Grecia però la LAMIA è una figura mitologica, è un demone che adesca i giovani, i bambini, che si nutre del loro sangue. Insomma, è un collegamento assolutamente insignificante, prendetelo per quello che vale, però è un triste presagio per quelli che osservano le cose con il senno di poi. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando una bellissima storia in partenza, una tragica storia come epilogo, la storia della Chapecoense, la squadra brasiliana che in 7 anni ha compiuto una cavalcata storica, è risalita dalla Serie D fino alla Serie A. È una squadra giovane, compatta, una di quelle squadre di provincia che riesce a ottimizzare le proprie limitate risorse finanziarie, valorizza giocatori che non sono grandi campioni, ma che sa creare un gruppo che trae forza dall'umiltà, dall'entusiasmo, che compatta tutto un paese che vede la sua grande rivincita proprio nella sua piccola squadra. E hanno disputato le fasi eliminatorie della Coppa Sudamericana, la nostra Coppa UEFA, sono arrivati alla finale, hanno la possibilità di entrare nella storia, però il destino ha scritto che non verranno ricordati per una vittoria. Boa tarde para você que está ligado no Facebook da Chapecoense. Nós falamos aqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos, Aeroporto de Cumbica. Chapecoense daqui a pouco inicia o procedimento de embarque para a cidade de Medellín, onde amanhã, na quarta-feira, enfrenta o Atlético Nacional pela primeira partida da final da Sul-Americana. 28 novembre 2016, siamo arrivati in Bolivia, all'aeroporto El Viru Viru di Santa Cruz, e i calciatori della Chapecoense stanno facendo le operazioni di imbarco sul volo charter 2933, organizzato per portare la squadra a Medellín per affrontare l'Atlético Nacional nella prima finale della Coppa Sudamericana. E lì i ragazzi fanno quello che fanno tutti i calciatori del mondo, girano il video col telefono, li postano sui social network, altri concedono interviste, fanno foto, tra di loro c'è Neto, il difensore, che concede un'intervista prima della partenza. Fico felice, grato, perché non è tutta ora che arriva una finale della competizione internazionale. Sono molto felice e ringrazio la squadra perché abbiamo raggiunto una finale internazionale e di questo dobbiamo essere grati a Dio e alla nostra tenacia. Daremo il nostro meglio in campo e speriamo di raggiungere l'obiettivo, perché momenti come questo capitano una sola volta nella vita e dobbiamo lottare per fare del nostro meglio. A gente non volta mai, tem que valorizzare questo momento e dare il nostro meglio dentro campo. Eh sì, la frase momenti come questo capitano una sola volta nella vita, con il senno di poi, diventa una frase terribile. L'aereo è un bimotore Avro RJ85, un piccolo aereo che porta al massimo 100 passeggeri. La compagnia aerea, la Lamia, è una piccola compagnia privata che ha avuto dei problemi per mantenere la licenza di volo, per non avere rispettato degli orari. Insomma, non può permettersi un ritardo perché potrebbe avere la sospensione definitiva e questo significherebbe il fallimento della linea aerea. E l'aereo ha un'autonomia di circa 3.500 km e la distanza che separa l'aeroporto boliviano da Medellín è di 2.959 km. Insomma, c'è uno scalo tecnico a metà strada per il rifornimento, però l'aereo parte con una ventina di minuti di ritardo. I motivi non sono chiari. Si dice che uno dei calciatori abbia chiesto di recuperare un videogioco nella valigia che era stata già imbarcata. Forse c'è dell'altro. Fatto sta che l'aereo parte in ritardo. La mia, come sempre, trasportando a equipo di football, in questo caso a Chapecó. La compagnia aerea lavora già da tempo con le squadre di calcio e anche questo servizio per il Chapecó rientra nelle operazioni abituali. Lavoriamo per offrire un servizio di prestigio e siamo orgogliosi di trasportare una squadra brasiliana alla finale di Medellín. Vamos transportarlos hasta Medellín. Eh sì, questa è la voce di Sissi Arias, che ha 29 anni, è la copilota di Miquel Quiroga, il comandante del volo. L'Arias è molto conosciuta in Bolivia perché è figlia di un giornalista molto noto, ha fatto la modella, sta conseguendo il brevetto di volo, partecipa a questo volo per poter accumulare le 1.000 ore necessarie per completare, per avere il brevetto. Anche per lei il destino ha teso una trappola terribile. E intanto il comandante Quiroga si accorge di essere in ritardo, comincia a fare due conti, perché lui non è solo il pilota dell'aereo, è anche uno dei soci della compagnia aerea boliviana. Insomma, sa che sta rischiando grosso. Arrivare in ritardo significherebbe ricevere un altro richiamo dall'autorità di volo, subire una nuova sospensione della licenza. E la compagnia non se lo può permettere. Allora lui cosa fa? Fa i calcoli sul numero dei passeggeri, sul peso totale dell'aereo e prende una decisione fondamentale. Niente scalo tecnico per il rifornimento. L'aereo può proseguire senza sosta fino a Medellín e recuperare il ritardo. E non è la decisione di un pazzo. I calcoli fatti dal capitano potrebbero essere giusti, però perché tutto vada bene non devono esserci contrattempi, e questa è una variabile che andrebbe considerata. Il comandante ci passa sopra e intanto i passeggeri, ignari di tutto, si preparano al volo. Felipe Machado registra un video, l'ultimo prima della partenza. Vai começar a viagem aí, ó. Ô, Fole. Vai começar a viagem pra Colômbia aí, ó. Viadinho, Caduzinho, Fole. Acre, depois nós vamos pra... Pra onde, Cadu? Acre de novo. Volta com o Acre. Cubidia. Volta com o Acre de novo, vamos aqui. É isso aí, galera. Vai começar agora. Bora. Aí, Xi, manda um alô aí pra galera. Agora vai sair, vai partir. Valeu. Josimito. È una sensazione forte sentire le voci di questi ragazzi, lo so. L'atmosfera è rilassata, i giocatori sono sorridenti, si pensa alla finale, cose che tanti ragazzi e tanti giocatori hanno fatto, stanno facendo e faranno sui voli di tutto il mondo. Ma questo è un volo particolare. Alle 18.18 l'aereo decolla dall'aeroporto di Santa Cruz per andare a Medellin, e a un'altitudine di poco più di 10.000 metri. Qualche minuto prima delle 10 l'aeroporto di Medellin ormai è vicino. Il comandante comunica con la torre di controllo, chiede un atterraggio prioritario. In sostanza lui sa di non avere molto carburante, chiede la precedenza sugli altri voli. La torre di controllo però fa passare prima un altro aereo con gli stessi problemi. Questo costringe il comandante a tendere in aria altri minuti prima di avere l'autorizzazione all'atterraggio. Compie due giri sopra Medellin, due giri che saranno fatali. Alle 22 c'è un botta e risposta molto rapido tra il comandante e la torre di controllo. Eh beh, sono terribile sentire queste cose. La verità è che il volo è in blocco elettrico totale, è senza carburante. Le parole pronunciate dal capitano sono vectores, vectores, motori, motori. L'ultimo disperato tentativo di far ripartire l'aereo, i motori sono ormai spenti per mancanza di carburante. E poi la torre di controllo perde il segnale. Que se conoce acerca de esa noticia. Andrés, muy buenas noches. Alejandra, muy buenas noches y mucha atención, porque hace pocos minutos delegados del club brasileño Chapecoense confirmaron que el avión que está desaparecido en este momento en el oriente de Antioquia, y por el que ya se activaron algunos mecanismos de seguridad y búsqueda, allí en este avión venían los jugadores del Chapecoense, del club Chapecoense de Brasil. Si attivano i soccorsi, i telegiornali cominciano a dare le prime notizie frammentarie. Da Medellin si alzano in volo elicotteri di soccorso, l'aereo non si trova, non c'è traccia, siamo di notte, e se l'aereo fosse in fiamme si vedrebbe da lontano, però la nebbia rende difficili le operazioni di ricerca. E l'aereo non brucia anche perché non c'è carburante. Due ore dopo la perdita del contatto in un bosco sulle alture del Cerro Gordo, a 20 km dalla pista di atterraggio, si vede una striscia di alberi abbattuti e molti frammenti bianchi. Sono i pezzi della fusoliera dell'aereo che trasportava 68 passeggeri, calciatori, dirigenti, giornalisti sportivi e 9 membri dell'equipaggio. I soccorritori notano subito questo, la totale assenza di fuoco, perché l'aereo è precipitato senza neanche una goccia di carburante. Dalle lamiere vengono estratti solo 6 sopravvissuti. Uno di loro è Erwin Tumeri, è uno degli assistenti di volo. Grida il nome dei suoi colleghi mentre riceve le prime cure. Amico, te duele lo stomaco? No. No. La columna. La columna. Quédate tranquilo, técnico. ¿Dónde está Alex? ¡Alex! ¡Ángel! Ya, es que está muy distante mi coronel. Yo estoy solo con él por acá. Yo estoy solo con él. Listo, sí, señor. ¡David! Claro que sí, mi coronel. No grites, técnico, tranquilo, cálmate, cálmate. Se llama Edwin, mi coronel, sí, señor. Mi tripulación. No, tranquilo, tranquilo, técnico, que no te preocupes, que estamos para colaborar a ti y a tus amigos también. Los que estamos sacando de Oriente los estamos sacando, ¿listo? No te preocupes. 6 superstiti, 3 calciatori, 2 membri dell'equipaggio e un giornalista. E tra i superstiti c'è il portiere di riserva Jackson Follman, al quale viene amputata una gamba. C'è Neto, il giocatore di cui abbiamo ascoltato l'intervista prima della partenza. Inizialmente c'era anche Danilo, il portiere, quello che con il rigore parato e con il miracolo della semifinale aveva permesso al Chape di qualificarsi per la finale. Morirà poco dopo il ricovero in ospedale. È inutile continuare a dire che sarebbe bastato non parare quel rigore oppure prendere un gol a tempo scaduto e la Chapecoense su quell'aereo non ci sarebbe mai salita, anzi quell'aereo non sarebbe mai partito. E qualche giorno dopo il disastro all'Arena Condà, lo stadio della Chapecoense, 50 bare vengono accompagnate sotto una pioggia battente da più di 100.000 persone. Tutta la città è andata a dare l'ultimo saluto ai suoi eroi. Il campionato brasiliano è stato sospeso, l'Atletico Nacional ha dichiarato di rinunciare alla Coppa a favore della squadra avversaria e la federazione ha deciso di assegnare la Coppa Sudamericana alla memoria della Chapecoense. E il campionato non è ancora finito, le squadre brasiliane offrono giocatori a prestito zero al club perché possa terminarlo quel campionato, perché sono rimasti in 10 di quella squadra, gli infortunati e i non convocati, quelli che non hanno preso quell'aereo maledetto, e sono questi ragazzi superstiti che magari avevano appreso con dolore e con disappunto il fatto di non essere convocati per questo giorno storico e che invece proprio per questo si sono salvati la vita. Sono loro che introducono il corteo delle bare il giorno del funerale, la folla canta i cori della squadra, migliaia di persone piangono, la voce di un giornalista della TV brasiliana cita una frase del filosofo greco Aristotele: la dignità non consiste nel possedere onori, ma nella coscienza di meritarli, e questo merito oggi va ai ragazzi della Chapecoense. Io non so come chiudere questa puntata, perché è una puntata difficile. Voglio ricordare una vignetta molto tenera, che è quella di San Pietro che consegna ai giocatori tutti su un podio, invece che una medaglia consegna una aureola, oppure una vignetta nella quale si vedono i giocatori del Torino e del Manchester United che stanno aspettando la Chapecoense per un torneo chissà dove. E noi vi aspettiamo con altre storie e vi chiediamo di segnalare al Falco il Gabbiano @24.it se conoscete qualcosa che secondo voi merita di essere raccontato, oppure seguitemi, interagite sul sito oppure sui miei social, sui nostri social, Facebook, Twitter, insomma, se volete sapete dove trovarmi. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.